Buon pomeriggio a tutti e innanzitutto vorrei ringraziare il professor Serafini per l'invito a essere qui quest'oggi a Foodopia. Quello che mi è stato chiesto di fare questo pomeriggio è di condividere con voi alcune informazioni su quello che può essere l'alimentazione ottimale dopo la menopausa. E innanzitutto stiamo parlando chiaramente della menopausa e quindi del pianeta donna, come potete appunto vedere in questa diapositiva, che mette in evidenza tutte quelle che sono le fasi della vita della donna, in particolare come, sia in un certo senso un quasi mancato riconoscimento del proprio corpo, nella donna dopo che si passa appunto attraverso la fase del climaterio e quindi della menopausa. E naturalmente questo è dato da che cosa? Da una serie di cambiamenti nell'organismo della donna che vengono definiti come sindrome menopausale, che è una modifica, un cambiamento nel corpo femminile dato dalla cessazione dell'attività delle ovaie, quindi di ghiandole che producono ormoni, e quindi la cessazione dell'attività ovarica comporta una diminuzione significativa e molto spesso brusca, repentina dei livelli estrogenici circolanti. E questo porta a che cosa? A una diminuzione dei livelli di estrogeni e ad un incremento, come appunto si può vedere dalla diapositiva, dei livelli degli ormoni gonadotropine. E questo che cosa comporta? Comporta tutta una serie di cambiamenti nell'organismo femminile che porta anche ad avere una sintomatologia che possiamo definire come problemi a breve termine, a medio termine e a lungo termine. E come spesso le donne conoscono, sanno, provano, vi sono dei sintomi cosiddetti vasomotori, quello che in gergo vengono definite le vampate. E questi problemi appunto a breve termine, cioè i sintomi vasomotori, cioè le vampate, si accompagnano spesso a che cosa? A dei cambiamenti anche del tono dell'umore che può avere dei bruschi cambiamenti, così come anche ai disturbi del sonno. Quindi sono tutti sintomi che possono essere presenti e che sono definiti problemi a medio termine. Ma quelli che sono forse un po' i problemi o le modifiche che l'organismo della donna subisce sono le problematiche legate ai problemi a medio termine e a lungo termine, e i problemi a medio termine, come vedete in diapositiva, sono dei problemi che si manifestano soprattutto a livello dell'apparato genitale, appunto distrofia urogenitale, l'incontinenza urinaria, la dispareunia, quindi tutti i sintomi che possono chiaramente andare ad alterare la qualità della vita. E poi le problematiche più importanti per quello che è il periodo della vita della donna dopo la menopausa, che dovete considerare, essendosi allungata la nostra vita media, rappresenta un buon terzo spesso della vita della donna, se pensiamo che l'età media della menopausa è intorno ai 50 anni e adesso per fortuna viviamo molto più a lungo, sino a una vita media di 83-85 anni. Quindi vedete appunto che i problemi che si possono manifestare quali sono? Quelli che sono determinati da una diminuzione appunto dei livelli di estrogeni che vanno in un certo senso ad alterare l'omeostasi, cioè l'equilibrio di organi che sono modulati dagli estrogeni, che sono gli ormoni fondamentali nel corpo femminile. Quindi che cosa? L'apparato scheletrico, quindi potete vedere appunto si possono manifestare disturbi come l'osteoporosi, e poi anche malattie cardiovascolari, le malattie cosiddette degenerative, e poi anche problematiche collegate a che cosa? A un incremento del tessuto adiposo, quindi all'obesità, e a una diminuzione della massa, della forza muscolare, che è la sarcopenia, che spesso va, ahimè, a braccetto in un certo senso appunto con l'osteoporosi. E quindi veniamo un pochino a vedere e a descrivere quelle che sono le alterazioni appunto che ho appena menzionato. L'osteoporosi che cos'è? L'osteoporosi è un disordine, una problematica, una malattia dello scheletro che è caratterizzata da una compromessa resistenza dello scheletro, dell'ossea, che predispone a che cosa? Ad un incremento del rischio di fratture, E questa resistenza si determina perché? Perché si ha una diminuzione della densità dell'osso, come appunto potete vedere in questa immagine. Se la paragoniamo all'immagine a sinistra, appunto, che rappresenta un osso normale, ma anche alla qualità del tessuto scheletrico, del tessuto osseo. E quindi che cosa succede? Che l'osso diventa meno resistente ad impatti traumatici, ma anche di lieve entità. Non stiamo parlando soltanto di una persona che casca dalle scale, ma anche semplicemente che scivola o che casca dalla sedia. E quindi l'osso diventa appunto meno resistente. Ma quello che dovete pensare, come appunto si vede nell'immagine, in questo schema, in questo disegno rappresentato nella diapositiva, è che l'osso diventa meno resistente, ma non dobbiamo appunto pensare soltanto alla frattura, come appena vi ho menzionato, caschiamo dalla sedia e ci fratturiamo l'omero piuttosto che il femore, ma dovete pensare che appunto anche le vertebre sono meno resistenti, l'osso presente appunto nelle vertebre, e quindi si possono avere delle fratture cosiddette spontanee. E queste fratture cosiddette spontanee portano appunto, come vedete, ad una diminuzione dell'altezza della donna, che è data da un'alterazione della colonna vertebrale, e quindi ecco qui che si può avere un'alterazione significativa della postura, che comporta anche tutta una serie di alterazioni dei nostri organi, perché pensate soltanto ai nostri polmoni, che vengono più compressi perché la colonna vertebrale, come vedete dall'immagine, è naturalmente alterata nella sua postura. E quindi naturalmente l'osteoporosi va ad impattare significativamente su quello che è l'organismo femminile, e naturalmente dovete pensare anche a quella che può essere l'alterazione, pensate alla deambulazione, alla respirazione e quindi alla qualità della vita stessa, perché una persona che si è fratturata naturalmente è una persona più fragile. Quindi l'osteoporosi è una patologia significativa negli ultimi decenni della nostra vita. Ma anche una cosa importante, un'altra problematica importante che vi ho menzionato prima, qual è? La sarcopenia. Sarcopenia che cos'è? È una problematica legata all'equilibrio muscolare, che è determinata da una diminuzione della quantità, della forza e della funzione muscolare. E questa diminuzione della capacità muscolare chiaramente è appunto determinata sarcopenia, e rende naturalmente il soggetto più fragile, perché se abbiamo una minor tonicità muscolare è chiaro che abbiamo una maggior, diciamo una maggior fragilità, perché tendiamo a cascare di più, ci sentiamo meno forti, e naturalmente anche abbiamo una maggior difficoltà alla deambulazione, siamo in un certo senso anche più proni, per esempio, a cascare. E l'altra cosa, chiaramente un'altra alterazione significativa che può avvenire nel corso della vita dopo la menopausa nel corpo femminile, è quello dell'incremento, come potete vedere da questa immagine, appunto un'immagine di una statua di Botero, ad un incremento del tessuto adiposo, quindi a un'obesità, ma anche a un incremento di quello che è il rischio cardiovascolare. Quindi naturalmente vi è un collegamento stretto tra tutte queste alterazioni che si possono manifestare, e quindi si può avere appunto un incremento del tessuto adiposo, l'obesità, si ha una diminuzione della massa muscolare e quindi la sarcopenia, si ha una diminuzione della resistenza e quindi un'alterazione del nostro scheletro. Quindi tutte queste problematiche sono strettamente correlate con loro. E cosa possiamo fare in un certo senso per prevenire tutto questo? Naturalmente l'importanza della nutrizione, della dieta, dello stile di vita svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, non nella cura di queste problematiche che vi ho descritto, ma nella prevenzione. E quindi torniamo a quello che è un concetto molto importante, che è il concetto della dieta. E questo termine fu introdotto da Ippocrate nel IV secolo a.C., Ippocrate di Cos, che è il primo medico della storia. Noi medici abbiamo il giuramento di Ippocrate quando appunto ci laureiamo, e E questo concetto, che adesso è un pochino svilito nel suo significato, è un concetto molto, molto bello, è un concetto che esprime che cosa? Le indicazioni che Ippocrate diede ai suoi concittadini per mantenere il benessere dell'organismo. E quindi era proprio un regime di vita che coinvolgeva che cosa? Un'indicazione su quello che poteva essere l'alimentazione più adeguata, l'attività fisica che doveva essere naturalmente mantenuta e attuata per ottimizzare quello che in un certo senso i latini diceva mens sana in corpore sano, e quindi mens sana e quindi anche benessere psicologico. E quindi che cosa possiamo in un certo senso dire sulla dieta dopo la menopausa e quindi dare dei consigli? Dobbiamo appunto ricordarci che questa dieta, e quindi in questo caso parliamo di alimentazione, l'alimentazione deve essere bilanciata, ma non soltanto dopo la menopausa. L'alimentazione deve essere bilanciata sempre, prima, durante e dopo la menopausa. E perché questo? Perché sempre Ippocrate che cosa ci diceva? Che il cibo in un certo senso può essere la medicina, e quindi ecco che la frase famosa fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo, e quindi questo naturalmente è importante e ci indica, ci ricorda quanto sia importante mangiare in maniera equilibrata. Ma quando parliamo di mangiare in maniera equilibrata, che cosa vogliamo dire? Questa immagine, questa diapositiva ci ricorda appunto che quando noi mangiamo introduciamo alimenti e gli alimenti contengono dei nutrienti. Nutrienti che cosa sono? Sono delle sostanze che hanno specifiche funzioni nel nostro organismo e che contribuiscono al mantenimento del benessere. Benessere perché? Perché noi dobbiamo ricordare che il benessere deve essere mantenuto per la prevenzione delle patologie. Pensiamo soltanto che oggi parliamo del Ministero della Salute, tanti anni fa parlavamo del Ministero della Sanità, quindi il punto qual è? Che noi dobbiamo cercare di preservare il nostro benessere per il mantenimento della salute. E nell'immagine vedete che alimenti sono, come vedete appunto, tutti quelli rappresentati nell'immagine, ma ricordiamoci anche, ricordatevi appunto, che un alimento è anche l'acqua che contiene sali minerali, l'unico alimento che non apporta calorie. Quindi, come possiamo dire, come possiamo in un certo senso categorizzare questi nutrienti? I nutrienti li dividiamo in macronutrienti, che sono appunto i glucidi, i carboidrati, i lipidi, cioè i grassi, e le proteine, e questi sono i macronutrienti. E poi abbiamo i micronutrienti, cioè quei nutrienti che devono essere, diciamo, apportati al nostro organismo in quantità minimali, che sono le vitamine e i sali minerali. Ma perché è importante ricordarci e parlare appunto dei macro e dei micronutrienti? Perché quando noi parliamo dei macronutrienti, cioè quei nutrienti che apportano calorie, noi dobbiamo ricordare appunto che per mantenere il nostro peso forma dobbiamo introdurre tante calorie quante in un certo senso ne escono. E come entrano le calorie? Abbiamo appena detto che le calorie entrano attraverso gli alimenti che apportano nutrienti, che apportano calorie, e quindi entrano. Ma per mantenere il nostro peso ottimale, quindi per dare all'organismo quanto gli è necessario, noi dobbiamo far sì che queste calorie siano tante quante escono. E quali sono le modalità con cui le calorie in un certo senso vengono bruciate, no? Si dice brucio le calorie, vengono bruciate. Attraverso che cosa? Attraverso il metabolismo basale, cioè le calorie che sono necessarie per il nostro organismo per mantenere le funzioni vitali, quando per esempio dormiamo. Poi vi è un potere termogenico degli alimenti, che sono le calorie che il nostro organismo consuma quando mangia e quindi quando dobbiamo in un certo senso digerire e assorbire le sostanze nutritive, e poi le spese determinate dall'attività fisica. Attività fisica, cioè tutti quegli atti che noi compiamo giornalmente e che sono naturalmente atti volontari. Chiaramente più ci muoviamo, più svolgiamo attività fisica, esercizio fisico, e più naturalmente aumenta quello che è determinato, quello che è l'energia che noi consumiamo. Tutte queste modalità fanno sì che noi otteniamo un certo dispendio energetico e quindi questo naturalmente è importante. Ricordatevi, ricordiamoci tutti, che purtroppo il miglioramento delle condizioni di vita ha portato a far sì che le condizioni di vita siano migliorate, pensate alle condizioni igienico-sanitarie, però ahimè siamo anche diventati molto più sedentari rispetto a quello che poteva essere la nostra vita, la nostra attività fisica, pensate soltanto all'inizio del secolo scorso. Quindi il bilancio energetico è determinato da queste, diciamo, da queste caratteristiche che vi ho menzionato e ricordiamoci anche che il nostro organismo necessita di un maggior apporto energetico, quindi calorico, in determinati periodi della vita, per esempio della donna durante la gravidanza, durante l'allattamento e poi anche se pensate alla vita di tutti noi, durante l'accrescimento, quindi chiaramente l'organismo per accrescere necessità di più calorie. Però per questo stesso meccanismo vi ricordo come andando avanti con le decadi di vita molto spesso le necessità energetiche diminuiscono e quindi se non manteniamo una vita altamente attiva, chiaramente questo bilancio energetico che vedete deve essere in equilibrio può non esserlo più. Ma chiaramente questi nutrienti, quindi gli alimenti, non devono essere introdotti nel nostro organismo in maniera casuale. Dobbiamo ingerire gli alimenti, dobbiamo assumere gli alimenti in maniera naturalmente controllata, seguendo delle indicazioni generali. Quali sono le indicazioni generali che sono ottimali per il mantenimento del nostro organismo? Beh, la dieta mediterranea, delle quali tutti naturalmente avete sentito parlare e che conoscete, è la modalità ed è il pattern cosiddetto, cioè le caratteristiche ottimali per far sì che noi introduciamo tutti gli alimenti importanti per il nostro organismo in maniera controllata. E la dieta mediterranea è una tipologia alimentare che è in un certo senso condivisa da tutte le popolazioni che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Quindi la dieta mediterranea non è una caratteristica nutrizionale seguita da noi che viviamo in Italia, ma dalle popolazioni che vivono anche nel Nord Africa o in Grecia oppure in Spagna, cioè tutte le nazioni o tutte le popolazioni appunto che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Ma la dieta mediterranea da che cosa è in un certo senso caratterizzata? Che cos'è che determina questa sua caratteristica particolare? Beh, soprattutto una tipologia alimentare che è caratterizzata soprattutto da un'introduzione, da un'assunzione ottimale che deve vedere la frutta, la verdura, i cereali, pensate ai cereali appunto pasta, riso, couscous, ecco perché il bacino del Mediterraneo, possibilmente le farine devono essere appunto integrali e poi anche patate, legumi, noci, sono tutti alimenti di origine vegetale. Il condimento che deve essere in un certo senso utilizzato in maggior misura è l'olio extravergine d'oliva e questo tipo di alimentazione deve prevedere che cosa? Un uso limitato di alimenti di origine animale e quindi tra la carne e il pesce, chiaramente preferire il pesce, la carne bianca, la carne rossa e le uova. Altro punto molto importante è che l'alcol deve essere assunto in quantità molto moderate e quindi il vino può essere assunto sulla base dell'indicazione della dieta mediterranea, ma in quantità limitate. E poi, altro punto importante, via l'utilizzo del piatto unico, pensate appunto a pasta e fagioli oppure riso e lenticchie, cioè tutti quegli alimenti che appunto possono determinare che cosa? Un'assunzione di tutti quei macronutrienti che vi ho elencato prima in maniera coordinata e unica appunto con un unico piatto. L'altra cosa importante che mi fa piacere ricordare in questa sede è che la dieta mediterranea è stata definita nel 2010 come patrimonio immateriale culturale dell'umanità, proprio per cosa? Per le caratteristiche ottimali dal punto di vista, in un certo senso, medico, cioè che per le caratteristiche nutrizionali appunto che apporta, ma anche per quelle che, quello che in un certo senso la dieta mediterranea porta con sé, e quindi la storia, la cultura, la condivisione di molteplici tradizioni, appunto, che sono caratteristiche patognomoniche di questo particolare regime alimentare. Quindi questo, come vi ho detto prima, appunto, potete vedere come la dieta mediterranea abbia o indichi delle quantità ottimali di quei macronutrienti che vi ho menzionato poc'anzi, che devono rappresentare delle percentuali ottimali perché il nostro organismo necessita di carboidrati in quelle quantità particolari, 45-60%, grassi o lipidi meno del 30%, di solito il 25-35%, e la quantità di proteine che si aggira intorno al 15-18%. Naturalmente queste sono indicazioni, vedete che in un certo senso i limiti sono relativamente flessibili perché deve, in un certo senso, la dieta adeguarsi all'individuo specifico, adeguarsi a quelle che sono le necessità specifiche del periodo della vita della persona e a quelle che sono naturalmente anche le abitudini, gli usi e i costumi. Come appunto possiamo in un certo senso riconoscere quelle che sono le caratteristiche degli alimenti? Perché dobbiamo avere una dieta variata? Perché potete vedere appunto che vi sono cinque gruppi, o meglio, che gli alimenti sono in un certo senso categorizzati in gruppi fondamentali che sono appunto cinque e che sono suddivisi sulla base di quelle che sono le caratteristiche e i nutrienti che questi alimenti apportano. Potete per esempio appunto vedere come nel gruppo 1 vi siano appunto la carne, le pesce, le uova, i legumi secchi che hanno quali caratteristiche? Quelle di apportare proteine di ottima qualità biologica, così come anche oligoelementi, le vitamine del complesso B. E poi per esempio il gruppo 3 come vedete contiene in un certo senso che cosa? Pane, pasta, riso, l'avena, l'orzo, cioè contiene alimenti che apportano amidi, carboidrati, quindi vedete glucidi appunto, e proteine di media qualità biologica. Quindi ecco che una dieta varia che contenga in quelle quantità ottimali tutti questi alimenti è di fondamentale importanza perché ricordiamo appunto che nessun alimento apporta tutti i nutrienti fondamentali da solo per il benessere dell'organismo. Quindi la dieta deve essere variata proprio per queste caratteristiche particolari e per far sì che si abbia un apporto ottimale di tutti quelli che sono macro e micronutrienti. Ma che cosa dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordare come appunto in alcuni particolari periodi della vita vi possa essere, appunto come ho detto poc'anzi, una necessità diversa dell'apporto di alcuni macronutrienti. E come potete appunto vedere, la quantità ottimale di proteine, per esempio, nell'organismo si aggira intorno a 0,9 grammi per chilo di peso corporeo, però per esempio andando avanti nel periodo della vita, o per esempio pensate agli sportivi, queste quantità possono variare e nei periodi più avanzati della vita, quando per esempio pensate abbiamo una diminuzione della massa magra oppure una diminuzione della densità scheletrica, come vi ho detto, possiamo avere la necessità di introdurre più proteine rispetto a quelle che introduciamo durante la vita adulta. E potete appunto vedere come possiamo avere un incremento della quantità di proteine che va oltre quella quantità che vi ho appunto menzionato e che può arrivare a 1,2 grammi per chilo di peso corporeo giornaliero, ma che naturalmente può essere variabile a seconda delle necessità dell'organismo. Quindi ribadisco il concetto che la dieta deve essere personalizzata e individualizzata sulle caratteristiche di ogni soggetto, che, con il quale in un certo senso ci confrontiamo per ottimizzare l'alimentazione. E poi, appunto, permettetemi di ricordare un micronutriente che svolge un ruolo importante, del quale si parla moltissimo, che è la vitamina D. Vitamina D, che potete vedere è presente in alcuni alimenti, però vi ricordo che in alcuni casi, per esempio, anche l'alimentazione potrebbe non fornire delle quantità adeguate dei micronutrienti, e in questo caso la vitamina D, per esempio, nei periodi più avanzati della vita della donna dopo la menopausa, potrebbe vedere la necessità di introdurre una quantità maggiore di vitamina D, e se soltanto con l'alimentazione non riusciamo, dobbiamo intervenire appunto con integrazione. Ma ricordiamoci che questo non deve essere un'autoprescrizione, ma dobbiamo sempre confrontarci con naturalmente un operatore sanitario, con un medico, per far sì che si garantisca in un certo senso la reale necessità e il giusto apporto dei micronutrienti, in questo caso della vitamina D. Ma perché la dieta mediterranea è importante, e perché continuiamo noi medici a indicare la dieta mediterranea come lo schema nutrizionale più adeguato per il benessere dell'organismo? Perché vi sono studi, pubblicazioni di ricerche scientifiche che tutti noi continuiamo a fare, che dimostrano appunto che l'alimentazione adeguata, la dieta mediterranea, è in grado di mantenere il benessere dell'organismo, perché, per esempio, diminuisce quella situazione che noi possiamo vedere, che è l'infiammazione cronica subclinica, che spesso determina che cosa? Un'alterazione di quelli che sono i processi metabolici nel nostro organismo. Per esempio, vi ricordo la presenza di radicali liberi, no? Che questa parola che molto spesso in un certo senso si torna a menzionare, che sono appunto delle sostanze, in un certo senso delle molecole, che possono danneggiare i nostri sistemi metabolici, le nostre cellule. Quindi la dieta mediterranea si è vista che, attraverso l'introduzione di quei nutrienti che vi descrivevo poc'anzi, è in grado appunto, tramite gli antiossidanti, di in un certo senso contrastare quelli che possono essere i danni indotti nel nostro organismo dallo stress giornaliero. E quindi ecco che la dieta mediterranea, ottimizzando l'assunzione di tutti quei macro e micronutrienti, è importante. Questo appunto potete vedere come gli studi scientifici dimostrino e apportino sempre più conoscenze dimostrate, che per esempio la quantità di proteine introdotte nella dieta insieme alla vitamina D è fondamentale per mantenere, per esempio, il benessere muscolo-scheletrico nelle donne dopo la menopausa. Quindi quel benessere muscolo-scheletrico, che cosa vuol dire? Vuol dire il mantenimento del benessere delle ossa, quindi dello scheletro, del muscolo, che sono di fondamentale importanza per il mantenimento appunto dell'integrità di questo apparato muscolo-scheletrico, che può essere in un certo senso inficiato, alterato dalla diminuzione dei livelli di estrogeni dopo la menopausa. E anche altro punto importante qual è? È che appunto che la dieta mediterranea è in grado anche di diminuire quello che è il rischio delle patologie cardiovascolari, come appunto messo in evidenza da questo lavoro che è stato appena pubblicato in questi mesi. Ma anche la cosa importante è che, se la dieta mediterranea ha tanti studi che dimostrano l'efficacia della diminuzione, e quindi la diminuzione del rischio delle patologie cardiovascolari, iniziano ad esserci sempre più studi che mostrano anche come seguire la dieta mediterranea, e quindi l'aderenza a questo schema nutrizionale, è importante anche per il mantenimento del benessere del nostro scheletro, e quindi per la prevenzione dell'osteoporosi. dolorosi. Ma un altro punto di fondamentale importanza che mi piace ricordare in questo contesto è l'attività fisica. Perché parlare di attività fisica? Perché come vi ho menzionato all'inizio, la dieta che cos'è? È un termine che comprende alimentazione adeguata ma anche l'attività fisica. E vi ricordo che l'attività fisica può essere considerata una qualsiasi forma di lavoro, di attività che è prodotta dalla muscolatura scheletrica, quindi dai nostri muscoli, e che determina un dispendio energetico superiore a quello appunto di riposo, cioè se noi dormissimo oppure se noi stessimo sdraiati senza far nulla. Per sedentarietà invece cosa definiamo? La non pratica di un'attività fisica per un tempo uguale o inferiore a 3 ore e mezzo a settimana. Quindi pensiamo che appunto a tutta la nostra vita, noi alla fine della giornata siamo molto stanchi, ma molto spesso è una stanchezza poi mentale, no? Siamo stanchi di pensare che dobbiamo fare questo piuttosto che quell'altro, però spesso ci muoviamo in macchina, spesso prendiamo l'ascensore anziché fare le scale, quindi tutti questi passaggi fanno sì che noi invece di mettere in movimento la nostra muscolatura scheletrica, in realtà siamo assolutamente fermi in un certo senso, quindi la nostra attività fisica è ridotta molto a una minima attività. E quindi ecco qua che qui vedete questa fotografia, una donna con i capelli argenti, cosa vuol dire? Che è nelle fasi più avanzate della vita, è presumibilmente una donna che è nei suoi anni dopo la menopausa, però vedete, dobbiamo mantenere un'attività fisica adeguata per far sì che la nostra muscolatura sia tonica, ma non soltanto prima della menopausa, anche negli anni subseguenti. E quindi che cosa possiamo dire? Che la dieta sicuramente è di fondamentale importanza. Perché? Perché come vedete da questa vignetta, no? Una dieta non salutare rappresenta in un certo senso il 30% di un impatto su quello che può essere la malattia metabolica cronica. Così l'attività fisica, vedete, l'attività fisica scarsa, la sedentarietà rappresenta in un certo senso, compartecipa per il 37% a quello che è lo sviluppo delle patologie metaboliche croniche, il fumo, soprattutto le patologie polmonari, ma non solo, rappresenta il 18%. E quindi che cosa vuol dire? Che se noi seguiamo uno schema di vita, quindi una dieta che comprende appunto alimentazione adeguata, benessere mentale e attività fisica, possiamo in un certo senso determinare quello che è il nostro futuro e ottimizzare quello che è il benessere dell'organismo e diminuire anche in maniera significativa quello che è, o quello che è la possibilità di sviluppare patologie metaboliche croniche. E quindi, per concludere, che cosa possiamo dire? Che la dieta mediterranea, qui la vedete rappresentata in quella che è la piramide della dieta mediterranea moderna, rappresenta in un certo senso visivamente quello che è lo schema di vita che noi dovremmo seguire, quindi un'alimentazione adeguata, e vi ho appunto condiviso quelle che sono le indicazioni importanti rispetto all'alimentazione che dobbiamo seguire, e vedete come questa dieta mediterranea moderna si sia ampliata nelle sue caratteristiche, perché adesso alla base della piramide vi è l'acqua, quindi è di fondamentale importanza ricordarci che quando parliamo di dieta parliamo anche di bere acqua, parliamo anche di idratazione, cioè l'acqua è un alimento fondamentale, vi ho detto l'unico alimento che non apporta calorie, ma apporta per esempio sali minerali e quindi è importantissimo per il benessere dell'organismo, ma poi guardate come la piramide appoggi su una base molto ampia che prevede che cosa? La stagionalità e la biodiversità, quindi l'assunzione di alimenti che in un certo senso rispettino quella che è la stagionalità, l'utilizzo di prodotti locali e tradizionali, quindi il mantenimento anche di quelle tradizioni, di quella cultura che in un certo senso fa parte anche del cibo, dell'alimentazione, la convivialità, convivialità che naturalmente è importante per il mantenimento del nostro, della nostra vita sociale, quindi anche per il benessere della nostra mente, e tutto questo accompagnato anche da un'attività fisica adeguata. E quindi questo in un certo senso vi È un po' il concetto fondamentale, quello che mi fa piacere in un certo senso lasciarvi come messaggio, cioè la condivisione e l'aderenza a questo schema di vita fa sì che, come la signora appunto rappresentata in questa immagine, possiamo mantenere stile di vita adeguato per il mantenimento del nostro benessere, della nostra elasticità, come vedete, no? Questa signora anziana che elasticità appunto ha nel suo organismo, ma soprattutto un benessere generale del nostro organismo che ci permetta di mantenere una buona qualità della vita. E vi ringrazio per la vostra attenzione.